nemmeno il destino ci può separare, perché questo amore che il cielo ti dà sempre vivrà. Nessuno, ti giuro, nessuno può darmi nel dono di tutta la vita la gioia infinita che sento con te, solo con te. Sei tu, dolcissimo amore, soltanto tu, passato a venire, tutto il mio mondo comincia da te, finisce con te. Nessuno, ti giuro nessuno, nemmeno il destino ci può separare, perché questo amore si illuminerà di eternità. Dolcissimo amore, soltanto tu, passato a venire, tutto il mio mondo comincia da te, finisce con te. Nessuno, ti giuro nessuno, nemmeno il destino ci può separare, perché questo amore che il cielo ci dà sempre vivrà. Nessuno, ti giuro nessuno, nemmeno il destino ci può separare, perché questo amore si illuminerà.